cuore, il pescerume, non è un sottoprodotto della povertà, anzi, oserei dire che questo pescerume è un pescerume ricco, è un pescerume dove lo squallore non viene dalla povertà e dalla mancanza di mezzi, anzi, uno squallore benestante, uno squallore violento, e questo ne fa un qualcosa di così orrido, perché sì, non è la mancanza dei mezzi. No, la mancanza di senso, di responsabilità e di consapevolezza. Esatto, la mancanza di civiltà e del saper cosa fare di ciò che la vita ha dato a questa regione, perché insomma rispetto a tante aree depresse del Mezzogiorno o di altri paesi, tutto sommato l'Agro Pontino ha avuto una bella spinta. E cosa ne ha tratto? Il pesce. Sono le ore 8 e 28 di venerdì 27 aprile 2018. Quello che avete sentito poco fa è il finale di un grezzo documentario che realizzammo nel lontano 2003 con Paolo Miscia e per Paolo Maio, intitolato SS 148 Conversazioni dal Pescerume, e che rappresenta a pieno titolo, credo, l'inizio di tutta l'epopea di Pendo Deliri, che, come forse qualcuno saprà, nasce dal periodo di pendolarismo lungo il raccordo anulare, la via Pontina in particolare, quindi il racconto di tutto questo pescerume dilagante che nasceva addirittura dalle opere di urbanizzazione primaria, questi non luoghi, questi luoghi della disperazione del pendolare, e che poi ci permettevano di interpretare questi segni come qualcosa che sarebbe poi arrivato, avrebbe dilagato in tutta la vita pubblica, come poi puntualmente è accaduto. Magari a quei tempi potevamo dire che il pescerume fosse manifesto nella vita pubblica attraverso il berlusconismo. Oggi francamente ho difficoltà a dargli una colorazione politica. Non credo che si possa dire che sia un prodotto del grillismo o del renzismo o del leghismo o magari anche dal berlusconismo di ritorno, perché se non ve ne siete accorti ancora non ci siamo liberati di questo individuo. No, penso semmai che il pescerume sia il prodotto dell'individualismo, della nostra propria incapacità di dare un senso a tutto ciò che è pubblico, che non è di nostra diretta proprietà. E quello che mi incuriosisce di questo finale, che avete anche potuto sentire di quel documentario risentito a questa distanza, è la presenza di una colonna sonora di cui mi ero quasi dimenticato e che produssi da solo, anche per evitare gli strali di questa specie di ente di solidarietà che si chiama SIAE, che permette ad alcune persone di percepire dei soldi per non lavorare, fondamentalmente, o quasi. E quindi cosa feci? Mi misi al pianoforte, feci così degli arpeggi abbastanza tristi e senza senso, li montai dentro questo video. L'ultimo di questi arpeggi, che avete sentito anche nel brano che abbiamo mandato prima, risentito a tanti anni di distanza, magari non significherà nulla per voi, però veramente per me rappresenta qualcosa di molto evocativo di quell'epoca, di quel periodo, e così ho pensato di ritrovarlo al pianoforte prima, e magari anche di provare qualche variante che potrebbe diventare davvero la colonna sonora di questa quarta serie di Pendo Deliri in tutte le varianti possibili, visto che ormai si può giocare con questi programmi di sequencing, come quello che uso per il mio computer, soprattutto ormai in quest'epoca, a differenza di quell'epoca, basta un computer qualsiasi per usarli. Ai tempi bisognava anche dotarsi di una scheda audio, oggi è tutto molto più semplice per certi versi, ma è molto molto più difficile per certi altri.